In occasione della settima biennale del Mosaico, siamo nella splendida sede espositiva del Mar di Ravenna per la giornata di giovedì 22 dicembre, una serie di eventi che avremo l'onore di condividere con Daniele Torcellini del Mar, qui al telefono con noi. Intanto buongiorno Daniele e benvenuto su Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutte, grazie. Ci puoi parlare, oltre che degli appuntamenti imminenti di cui daremo approfondimento a breve, anche di questa occasione di settima biennale del Mosaico? Sì, assolutamente, la settima biennale del Mosaico è stata un appuntamento che abbiamo allestito, realizzato, messo in moto in ritardo di un anno rispetto all'edizione che avremmo dovuto realizzare lo scorso anno per ovvi motivi, ritardato, insomma, il Covid, e abbiamo deciso di organizzare un evento diffuso che ha riguardato diverse sedi cittadine con l'ottica di esplorare la presenza del mosaico nella contemporaneità, nelle sue molteplici declinazioni. E appuntamento centrale, diciamo mostra principale della biennale, di questa biennale 2022, è stata la mostra che abbiamo allestito al MAR, al Museo d'Arte della Città, Prodigy Kid, dedicata agli artisti Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi. L'appuntamento è per la serata di giovedì 22, ci puoi dire appunto com'è strutturato il motivo di incontro? Allora, per giovedì 22 potrei fare una premessa in cui spiegare brevemente l'assetto della mostra per chiarire un po' l'appuntamento di giovedì, perché la mostra Prodigy Kid è suddivisa in diverse sezioni, è una mostra che vede gli artisti Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi come collettivo, un collettivo che si è formato nel 2018 e che appunto da allora li vede lavorare in collaborazione, però sono due artisti che hanno anche percorsi personali, individuali. La mostra Prodigy Kid è allestita suddividendo i due piani del museo con due sezioni dedicate a due mostre personali dei due artisti e una sezione dedicata ai lavori di gruppo, ai lavori di collettivo. E nel loro lavoro gli artisti come gruppo realizzano installazioni, performance, mosaici e sculture, ma l'attività performativa è poi anche strettamente intrinseca al lavoro di uno dei due, di Francesco Cavaliere, musicista, scrittore, appunto performer, cantastorie, come spesso si definisce. È per questo che giovedì abbiamo pensato di organizzare una serie di performance dedicate al lavoro di Francesco Cavaliere, quindi sarà la sua linea di ricerca personale che sarà presentata, curata da Xing. Già in passato ha avuto collaborazioni con Francesco e quindi presenteremo un ciclo di tre performance di Francesco che si svolgerà tra le 17 e le 19 di giovedì. Puoi svelare qualcosa di più a riguardo, tra l'altro anche un'intersezione con l'aspetto musicale, con il suono? Sì, esatto, sì. L'aspetto musicale è fortemente presente anche perché insomma Francesco lavora con la sound art, diciamo nel contesto della sound art, molte sue opere sono sculture sonore. E in più per l'occasione con la curatela di Xing è stato invitato anche il duo Inverno Muto con una installazione sonora molto suggestiva, un lavoro dedicato alle ocarine. E l'aspetto sonoro è fortemente presente perché insomma in qualche modo l'attività stessa di Francesco Cavaliere nasce nel contesto musicale e quindi la parola narrata, l'oralità che si accompagna ad una tessitura sonora caratterizza molte delle sue performance. È una sede oltre che affascinante, situata nella splendida Ravenna in posizione anche comodamente raggiungibile, è un contenitore che è particolarmente atto ad accogliere queste situazioni, il Mar di Ravenna. Abbiamo parlato di microsensazione sonora, ora parliamo di emozioni visive, Daniele. Da quel punto di vista sia Francesco Cavaliere che Leonardo Pivi sono due artisti che hanno una grandissima sensibilità nei confronti delle qualità sensoriali, sensuali della materia, ed è stato proprio anche un punto di incontro tra di loro questa loro attenzione, una materia lavorata molto diversamente nei loro percorsi. Leonardo Pini lavora molto con il mosaico, con la scultura, con la pittura, elaborando, trasfigurando i materiali, lavorando molto con un'elaborazione anche complessa dei materiali e di grande perizia tecnica. E di contro Francesco Cavaliere ha questa attenzione ai materiali che spesso sono a volte più presentati che elaborati, e con un'attenzione in particolare al vetro, al metallo, al legno, e diventano materiali in grado di incarnare spesso le trasfigurazioni immaginifiche che caratterizzano le sue storie, le sue favole contemporanee. E quindi un'esperienza multisensoriale. Sarà dalle ore 17 di giovedì, se non ho capito male? Sì, dalle 17 in poi, dalle 17 alle 19 ci saranno questi tre interventi performativi che si succederanno, diciamo, periodicamente l'uno dopo l'altro, ripetuti nell'arco delle due ore. Gli accessi alle sale del museo sono piuttosto limitati per la dimensione degli spazi, quindi insomma non accalcarsi e lasciare un po' fluire in queste due ore un libero percorrere di questi spazi in concomitanza con le azioni performative di Francesco, non sono da immaginare come strettamente uno spettacolo teatrale, ecco, chiaramente. Multisensoriale e interdisciplinare fra le arti, infatti, al MAR, giovedì 22 dicembre. Concludo con una domanda così, magari anche che va al di fuori di tutto ciò. Ho intercettato, intuito anche di un prestito importante di un disegno di Leonardo. Sì, sì, la mostra Prodigy Kid prende il titolo dall'ultima serie di lavori che Francesco Cavaliere e Leonardo Pivi hanno realizzato in collaborazione, lavori che sono stati realizzati a partire da uno spunto che insomma in qualità di curatore ho offerto loro, che è questa leggenda che si è diffusa a Ravenna nei primi del Cinquecento, una leggenda che narrava la nascita di una creatura deforme, descritta come un essere ibrido, metà umano, metà animale, con ali di pipistrello, un corno in testa, una gamba squamata, un occhio in un ginocchio, una doppia natura maschile e femminile, un essere quindi così fantastico che immaginavo potesse sollecitare l'immaginazione già fervida e molto, molto prolifica degli artisti. E così è stato, e hanno dato forma ad un'ultima serie di opere, la loro appunto ultima serie di opere inedite presentate in occasione della mostra, immaginando questa creatura fantastica nella contemporaneità. Ecco, il mostro di Ravenna è diventato il loro Prodigy Kid. Un prodigio, sì. E nel lavorare a questa produzione abbiamo individuato questo disegno di Leonardo da Vinci, ora parte del Codice Atlantico e conservato alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, che raffigura una creatura che corrisponde in modo molto forte alle descrizioni che agli inizi del Cinquecento furono fatte del mostro di Ravenna, e quindi abbiamo chiesto il prestito alla biblioteca milanese, e con nostra grande gioia abbiamo ottenuto la possibilità, insomma, di esporre un disegno di Leonardo da Vinci in una mostra di arte contemporanea, mettendo in dialogo le produzioni a mosaico, scultore, insomma contemporanee degli artisti con questo affascinante disegno. Io ti ringrazio tanto, appuntamento nella splendida Bizantina Ravenna per questo motivo di incontro tra arte ed emozione. Grazie Daniele, una buona giornata e ti aspettiamo per un altro appuntamento nella rubrica In Mostra. Grazie. Grazie a voi e buona giornata a voi.